La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Si va con la marea di sale e miele, distesi sul pattino come due vele. Riccione nella notte, non so perché, ricorda vagamente un sogno leggero. Rio de Janeiro, vero? 16.06 e 48, 49, 50 secondi, sono molto preciso perché non vorrei che voi pensaste questo qui dov'è? Primo agosto sarà in vacanza. No, qui sono qua in studio con il tecnico, il regista e tutta la mia equipe, le redattrici. Sono qui e ascolto con piacere questa canzone di Marcella Bella, Rio de Janeiro. Perché? Perché lei racconta di una vacanza fatta a Riccione pensando di essere a Rio de Janeiro. Per me è una tecnica bellissima, di quella che io chiamo parvenza. Parvenza di qualcosa di più grande che non possiamo permetterci. Oggi parliamo proprio di questo, le vostre parvenze d'estate. Siete rimasti in città? Bene, dovete dirmi allora all'800240024 in che modo pensate di essere in vacanza, in che modo sostituite il desiderio di mare, quelle cose che avete, la sabbia, come fa a piacervi, non lo so, con la vostra presenza in città. Avremo diversi esempi poi per poter avere anche così delle suggestioni, degli spunti. Ma io voglio sentire quello che fate voi veramente. D'altronde, se non siete andati in vacanza, siete perfettamente in linea con quello che sta succedendo oggi, perché è questione dibattuta in questa mattinata. Persino un ministro della Repubblica Italiana come Calderoli ha detto che non dobbiamo andare in vacanza. Visto che i tempi sono di assoluta eccezionalità, lavoriamo anche nel mese di agosto, tutti rinuncino alle ferie sia per la parte politica che per le parti sociali. Lavoriamo in agosto in modo da aver pronto per il primo di settembre una proposta concreta per il rilancio dell'economia. Ecco, quindi lavoriamo ad agosto, non andiamo in vacanza, mi raccomando. Se voi lavorate e la sera tornate a casa, avrete sicuramente un metodo per pensare di essere in vacanza. 800240024, mi raccomando, fatemi sapere come fate finta di essere in vacanza. La coppia di cui abbiamo appena sentito al GR, per esempio, era in auto, in pieno Piemonte, e pensava invece di essere sulla battigia di una spiaggia, come in tante canzoni di Baglioni, a fare quello che fanno le coppie sulla battigia della spiaggia d'estate, solo che erano però in una macchina in provincia di Biella. Questo è un bellissimo esempio di parvenza di vacanze estive. Comunque, la crisi non attanaglia solo noi, caro ministro Calderoli, anche in Olanda. Ho scoperto questa cosa meravigliosa, c'è un cantante che si chiama Dries Roelvink che ha appena inciso una canzone che si chiama, titolo difficilissimo, Geen Crisis War Dries Is, che vuol dire contro la crisi c'è Dries, cioè lui stesso. Noi diciamo per fortuna che Silvio c'è e lui dice per fortuna che ci sono io. Sentite la canzone e poi vi spiego il video. Bel die Dries is, want waar Dries is, daar moet je zijn geweest. Siete già lì che ballate, lo so, vi vedo, vi sento. Questo è appunto Dries Roelvink, che fra l'altro è anche in classifica in Olanda, perché è un cantante molto conosciuto in Olanda. Nel video questo massiccio signore gira per un paese olandese e guarda nei negozi. E i negozi sono vuoti, non ci sono clienti e i gestori sono tristi. Lui entra, sale su uno sgabello, canta, i negozi si riempiono. Quindi è lui che vi aiuta a combattere la crisi. Vabbè, e questo succede in Olanda, per fortuna non succede qui. La puntata di oggi, ve lo dico subito, sarà molto puntata su puntata, guarda che pasticcio che ho fatto, sarà molto dedicata alla città di Milano. Perché? Perché Milano è l'unica città in Italia in cui non c'è nessuna parvenza di vacanza. Firenze uno fa in fretta ad andare al mare, Roma ancora di più, lasciamo perdere Napoli, Palermo, a Torino hanno il Po, insomma in ogni città o ci sono le colline dove puoi andare a prendere il fresco, pensate ai colli bolognesi, a Milano non c'è niente, non c'è un fiume, non c'è... Ah, no, è vero, a Milano abbiamo l'idroscalo, è vero, c'è l'idroscalo. E com'è nato l'idroscalo? Dopo vi spiego che cos'è, ma intanto sentite com'è nato l'idroscalo. Suprema risorsa contro le mazzate del Solleone, l'idroscalo. Un quarto d'ora di autobus da Porta Vittoria. Idroscalizziamoci. L'idroscalo nacque una trentina d'anni fa del tutto casualmente. Occorreva un'enorme quantità di sabbia per la costruzione della nuova stazione centrale. Gli scavi a nord di Tagliedo liberarono sorgenti d'acqua talmente ricche e regolari che alla fine la gigantesca buca aveva l'aspetto di un vero e proprio lago. Era nata così la Riviera di Milano. Ecco, era nata così la Riviera di Milano, da un buco fatto negli anni 30, perché questa è una registrazione del 62, quindi quando dice 30 anni prima in realtà oggi sono 80, da un bisogno i pragmatici milanesi hanno creato poi un luogo di divertimento, l'idroscalo, che oggi fra l'altro è tenuto benissimo, è stato ristrutturato, è tutto piste ciclabili, attività sportive, molto carino da visitare, quando una cosa è fatta bene bisogna dirlo. L'idroscalo è appena fuori città ed era un tempo il luogo in cui i milanesi andavano a fare le grigliate. Oggi naturalmente ci vanno sempre meno i milanesi, però c'è tantissima gente che ci va a fare grigliate. A volte, siccome Linate è vicinissimo all'idroscalo, il fumo delle grigliate è talmente denso che bloccano la circolazione degli aerei. Però l'idroscalo è anche, o almeno era, un motivo di orgoglio per i milanesi. La Cesira, la manicure Cesira, ossia Franca Valeri, di fronte a un signore che voleva invitarla al mare, capisce naturalmente tutt'altro, pensa di essere offesa e risponde in questo modo. Lui voleva offendere a destra a sinistra, vero, per darmi la bottata che noi a Milano non ci abbiamo il mare. Senta, m'ha preso un nervoso, ma sa proprio qui alla punta dello stomaco che quando mi piglia guai, vero? L'ho preso così per la giacchetta, l'ho messo contro il muro. Gli ho fatto, dico, senta lei, la questione marittima regoliamola subito. Se fa allusione a un'acqua di fattura fine... abbiamo l'idroscalo, che siccome l'hanno fatto fior di ingegneri e fatto con quel certo grano salis, ci trova fior di ragazzi in due pezzi e tutto il resto che non ci manca niente, glielo dico. Ma la riva è lontana più di quello che sai, e i tuoi cerchi nell'acqua non vi arrivano mai. Ma in quale acqua faceva i suoi cerchi, magari lanciando i sassolini, Memo Remigi? Lo chiediamo direttamente a lui. Memo Remigi. Buongiorno. Buongiorno. Dov'è, in vacanza? Sono sul lago. Ecco, perché ho voluto chiamare Memo Remigi, perché per me è l'unico grande lacustre musicale lacustre italiano. No, perché in Inghilterra hanno avuto i poeti lacustri verso la fine dell'Ottocento, in Italia no. Abbiamo un musicista lacustre e poi qualche scrittore come Vitali oppure come Piero Chiara. Invece Memo Remigi è l'altro aspetto del lago, perché il lago è un po' il mare dei milanesi, non è vero? È verissimo, è verissimo, ma fin dai tempi remoti. Io abito a Varese, le ville più belle che ci sono a Varese sono dei milanesi che andavano in vacanza a Varese perché c'era il lago e altri laghi, il Lago Maggiore, il Lago di Garda, che sono vicinissimi, per cui la zona dei laghi è molto frequentata. Poi il lago è stupendo, non ha niente da invidiare al mare. Ecco, qui ci sono due scuole di pensiero, c'è chi dice no, il mare è meglio, il lago è una, così, è una sostituzione, una parvenza di mare, che invece preferisce il mare. Molti tedeschi e olandesi poi venivano sul lago e sì, vengono infatti, tuttora. Ma anche adesso ci sono tantissimi tedeschi che vengono dalle mie zone, ecco, diciamo così. Ma lei è legato al lago di Como? Sì, io ho legato al lago di Como perché da ragazzo vivevo a Como, ho studiato al Collegio Gallio, da bravo ragazzo, ai padri Somaschi, e poi avevo una casa proprio a Como sul lago, e il nostro divertimento da ragazzi era quello proprio di andare a pescare in riva al lago. Si pescavano le famose alborelle, si pescavano i cavedani, questi pesci di lago buonissimi tra l'altro, ed era un grande divertimento, una grande passione quella della pesca del lago. Adesso magari i ragazzi ci vanno un po' meno a pescare le alborelle sul lago. Anche perché di solito non ci sono più tante alborelle. Perché... No, per quello, guarda, per quello ci sono. Ah, ci sono ancora? Non ci sono i ragazzi che vanno a pescare, ecco. Ma Memo Remigi è andato al mare in vacanza? Ma io vado al mare, però ti devo dire, non è la mia passione assoluta il mare. Perché per tante ragioni, innanzitutto perché quando si decide di andare a mare io preferisco andare nei periodi dove non ci vanno gli altri, per cui il fatto di andare nei periodi, diciamo agosto, fine luglio, così c'è una marea di gente, proprio marea di gente, con la parola anche giusta, e ci si muove anche male, mentre se tu vai sul lago, il lago è più riposante, è più romantico, è più anche quel senso di tristezza che ti dà il lago anche d'inverno è un'atmosfera molto più dolce che non te la dà il mare. Il mare è un'altra cosa, il mare è aggressivo, il mare è simbolo di potenza, mentre il lago è simbolo di tranquillità. Io sono uno tranquillo, forse per quello che amo il lago. Però lei è anche uno molto urbano, lei per me è... Allora, Mimmo Rimigi sta a Milano come Billy Joel sta a New York. Ecco, quindi lei è passato anche qualche estate a Milano. Sì, sì, sicuramente, ma proprio all'inizio, anche all'inizio della mia carriera, io quando abitando a Como andavo tutti i giorni alla Curci, Galleria del Corso, nell'ufficio del mio maestro Giovanni Danzi, e ci andavo anche nei periodi estivi, perché erano i periodi in cui Milano la vivevi con un'altra atmosfera, totalmente diversa da quella solita, caotica, stereotipata. E poi avete detto anche prima voi, l'idroscalo a Milano è bellissimo, io ho fatto anche degli spettacoli, fanno degli spettacoli molto belli organizzati dal comune per i milanesi che non vanno in vacanza e stanno a Milano, insomma ci sono tante alternative. E Milano devo dire che è bella anche vissuta d'estate, proprio per questo motivo, perché innanzitutto non è caotica, è una città tranquilla, che se tu vai in centro nelle ore di punta, nel mese di agosto, ti sembra di essere veramente in un deserto. Beh, sì, c'è meno, non la riconosci meno gente. Più. Proprio oggi, poi fra l'altro, sull'edizione milanese del Corriere della Sera c'era un bel articolo di Filippo Daverio sulle bellezze artistiche di Milano nascoste da riscoprire durante l'estate. Che sono stupende. Guarda, io ho scritto una canzone intitolata Tra i gerani e l'edera, che parla appunto di questi cortili della vecchia Milano, che sono nascosti perché da fuori non li vedi, però tu entri in questi portoni e dentro scopri un mondo straordinario. Cortili, diciamo che adesso ristrutturati, hanno la facciata ancora del vecchio cortile romantico, con i vasi di gerani, basilico, l'intera. Ma all'interno invece... Però all'interno sono tutti degli appartamenti da 12.000 euro tutto qua. È cambiata anche la prezzatura al metro hanno quadro. La carrozzeria, è cambiato il motore. Purtroppo. Va bene, grazie Mimmo Rimigi, buone vacanze allora sul lago. Grazie a voi, buone vacanze a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie. Ecco, allora abbiamo sentito Mimmo Rimigi che parlava del lago e abbiamo ricordato l'idroscalo. Però c'è un'altra cosa da dire. Qualche anno fa, sempre a Milano, la città in cui appunto non è possibile fare vacanze che siano diverse dal visitare la città, in zona abbastanza centrale, anzi centrale, dietro l'Arco della Pace, in Corso Sempione, fecero il mare a Milano, che era una cosa tristissima, perché era un recinto pieno di sabbia in cui la gente andava e si credeva al mare. Naturalmente la cosa non è durata molto, perché, vi ripeto, era abbastanza triste, era veramente un recinto chiuso, sembrava di vedere dentro degli animaletti. Però a differenza di quello che avveniva all'idroscalo, veniva a mancare la semplicità. Mentre l'idroscalo andavate, vi facevate la vostra grigliato, mangiavate un panino, in questo recinto tristissimo del mare a Milano c'era il bar che forniva il sushi. E vabbè, d'altronde i tempi sono cambiati, che tristezza. Vedo però, già che mi stanno chiamando, allora sentiamo subito cosa ci dice. Ecco, c'è Sergio da Milano. Sentiamo un attimo cosa mi dice Sergio da Milano. Sergio. Buongiorno carissimo. Buongiorno. Allora, volevo integrare una cosa dell'idroscalo. Sì. La buca che è stata fatta per consentire alla stazione centrale di crescere, di nascere, ha fatto questo specchio d'acqua, ha creato questo specchio d'acqua. E siccome nel periodo fascista avevano puntato, cioè la proiezione del futuro era che gli aeroporti non erano i classici aeroporti adesso, insomma volevano sfruttare l'acqua. L'acqua, no? Sì. E quindi è nata la prima... Il primo aeroporto di Milano è stato l'idroscalo, che era una pista di idrovolanti. Sì. E poi dopo, col passare di qualche decennio, questa cosa è andata a finire, perché non è un idrovolante quando c'è il mare mosso non può atterrare. Quindi all'idroscalo non è mai mosso, però poteva solo atterrare lì. Quindi di conseguenza è nato l'aeroporto Forlanini all'inizio degli anni 60. Quindi dalla stazione centrale si è creata la buca, si è creato il posto degli idrovolanti e poi è diventato il parco dell'idroscalo. E poi è diventato l'aeroporto, perché non era lì ma era in fondo a Porta Vittoria. Infatti. Prima della... E questo sai perché, Sergio? Perché a Milano non buttiamo via mai niente, tutto viene riciclato e viene riutilizzato. Grazie a Sergio. Intanto c'è Milva, anche lei che gira dalle parti di Milano, che il mare lo teneva nel cassetto. Vieni a vedere il mio mare. io lo tengo nel cassetto, una conchiglia, due stelle, tre gocce di mare blu. Quando si dice minimalismo, lei ha messo una conchiglia nel cassetto, un po' di sabbia, fa ecco, apre il cassetto Milva, dice bene, anche oggi sono andata in vacanza, e lo chiude. Ma adesso basta parlare di Milano, almeno per il momento. Ci trasferiamo a Lucca, dove c'è un pittore che ci aspetta, Lisandro Rota. Pronto? Pronto. Oh, buongiorno. Buongiorno. Se avete la bella abitudine di passare sulla nostra pagina Facebook, la pagina della Bella Estate, avrete visto un quadro che illustrava la puntata di oggi. Un quadro di una signora con i piedi immersi in un catino d'acqua, che per me era l'idea migliore del surrogato del mare. L'autore di questo quadro è Lisandro Rota, a cui ho voluto telefonare perché ha creato tutta una serie di quadri dedicati a questi sotterfugi per sentirsi un po' in vacanza. È vero, Lisandro? Sì, è vero. Una serie... è vero, è da qualche anno che sto dietro a questi soggetti. Ecco, ma è lei a Lucca? Sì. A Lucca cosa fate? Andate al mare? State in città? D'estate? Ma intendo. A Lucca molti dei lucchesi vanno a Viareggio, che è la località più vicina. Io no. Perché no? Perché non sono un grande amante del mare. Ecco. Io me lo costruisco in casa. Ha visto, no? Ho visto, sì. Mie opere. Ho visto. Ecco, molti per esempio usano l'estate, invece di usarla per andare in vacanza, in ferie, al mare, magari si dedicano appunto alla pittura in maniera così, da dilettanti naturalmente. Sono tante le persone che lo fanno. Sì, penso proprio di sì. Ma lei lo fa invece... Non è solo un divertimento, insomma, a questo punto è diventata quasi una professione. Ma lei sta esponendo adesso a Lucca, ho visto, proprio in una piazza. Sì. Sì, ma quello è una cosa che si ripete praticamente il terzo sabato e la terza domenica di ogni mese, in concomitanza con il mercatino dell'antiquariato a Lucca. Però questa è una cosa che va avanti da molti anni, ma lì ci sono due quadri al massimo in esposizione per ogni giornata espositiva. Ecco, io vi invito veramente a vederli i quadri di Lisandro, perché uniscono, come ho anche detto sulla nostra pagina Facebook, la poesia ha anche una buona dose di umorismo, perché comunque hanno un tocco molto leggero. È vero, io Lisandro? Cerco di metterci una parte ironica. A volte c'è anche un po' di malinconia, un pochino di tristezza. E beh, quando si passa l'estate in città c'è sempre un fondo di malinconia, un po' di tristezza in fondo. Per forza. Lisandro, grazie tante per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie, a presto. Bene, adesso abbiamo avuto anche un bel momento d'arte. È difficilissimo parlare di quadri alla radio, perché non si possono far vedere. In TV è tutto più facile. Vitalba da Roma, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno. Buongiorno, a Roma cosa fate? Andate a Ostia? A Roma andiamo a Ostia, andiamo alla spiaggia Cafonal, no? Sì, beh, certo. È bellissimo perché ci si rende conto che Verdone, se ha approssimato qualcosa, l'ha fatto per difetto, perché vedere poi la realtà qual è, senza inventarsi niente, quindi non su uno schermo, e si vede che appunto la realtà supera la fantasia. E il mio, diciamo, più grande diletto andando ad Ostia in religiosa solitudine, nonostante io sia poi tra migliaia di persone tutte una diciamo attaccata all'altra, è proprio quella di guardare. Sono su un immenso set cinematografico dove posso veramente osservare le persone, cosa si muovono, cosa fanno, cosa dicono. Sì. Ed è bellissimo. Ma tu quest'estate andrai a Ostia oppure stai a Roma? Allora, a Ostia rigorosamente nel weekend, sì. Perché comunque durante la settimana lavoro, quest'anno niente serie, ma il solo fatto di aver spedito i figli da una nonna e quindi averli a 800 chilometri di distanza. Poi addirittura li hai spediti proprio a 800 chilometri. Sì, no, assolutamente, al bando diciamo i sensi di colpa materni, io mi riapproprio di me stessa, della mia dimensione, non devo correre appresso alle scadenze, agli incastri, a tutto quello che ruota intorno ai ragazzi, quindi la mia vacanza è stare a Roma e pensare durante la settimana a lavorare, durante il fine settimana andarmi a godere Ostia, il sole, sempre il sole, il mare, per me, nonostante sia sporco, sia quello che non importa, comunque mare si muove, e io non potrei come Memore Migi stare al lago, perché per me l'idea del movimento è vita, quindi il mare è necessario, e mi osservo i romani. Beh, quindi questa è la tua parvenza d'estate? Assolutamente. Comunque mi sembra molto felice, mi sembra felice. Se sei felice tu, sono felici tutti. Grazie Vitalba. Prego, arrivederci. Ciao, bene, allora abbiamo anche il nostro momento Hit Parade oggi. Mi sembra che sia il 1994. Sì, è lui. Hit Parade! Numero 10, You and Me, Cappella. Numero 9, Voglio di più, Jovanotti. Non mi basta mai. Non mi basta mai. Non mi basta mai. Non mi basta mai. Voglio un panino gigante con dentro un milione di cose. Voglio Madonna per portarmela a letto e poi mandarle un milione di rose. Voglio una vasca piena di Coca-Cola e mentre nuoto voglio bere e abbronzarmi. Numero 8, Lady Madonna, Spagna. Numero 7, Inside, Still Skin. Numero 6, Bomba, Ramirez. Numero 5, Chiuditi nel cesso, 883. Numero 4, The Summer is Magic, Play Haiti. Numero 3, Il cielo, Fiorello e Caterina. Numero 2, Sweet Dreams, La Bush. Numero 1, The Rhythm is Magic, Marie-Claire Dubaldo. Every heartbeat is a miracle. Simply breathing out and breathing in. Every planet in the system, every distant star dances still. Perché il 1994? Beh, devo confessare, non è proprio autopromozione perché è una cosa talmente tanto vecchia. In quel lontano anno io pubblicai una cosina in cui parlavo appunto di emulazioni fallite, di parvenze, quindi mi sembrava così, in stile. Ma quanto era brutta la musica degli anni 90? Ce ne stiamo accorgendo adesso. C'era Jovanotti, voleva andare a letto con Madonna e nessuno ha mai telefonato a Madonna per sapere cosa ne pensasse di questa orrenda iniziativa. C'era Ramirez con Bomba, anche se io a casa dovrei avere da qualche parte il Gallinero, che è ancora peggio di Bomba, sempre di Ramirez. Veramente, per fortuna sono finiti gli anni 90, grazie, non tornate più, neanche con Revival voglio vederli, basta, per carità. Questo finale, poi cos'è? Questa canzone sta andando sotto? Cos'è? Serve per le segreterie telefoniche, cos'è? Va bene, finita la prima parte, sono finiti gli anni 90, c'è la borsa e noi torniamo dopo con l'800240024, mi raccomando, per sapere come cercate di ingannare il fatto di non essere andati in vacanza stando in città. La bella estate. Ho chiuso prima dicendo quanto era brutta la musica degli anni 90, perché io sono nato prima, quindi sono legato a questi ritmi e a questi ricordi, gli Wham con Club Tropicana. Perché ho preso Club Tropicana? Perché nel testo e anche nel video si racconta di un'estate fittizia. Loro vanno in questo tristissimo villaggio e dove possono abbronzarsi, hanno i cocktail gratis, l'unica cosa che manca, dicono, è il mare. E vabbè, pure l'Inghilterra è un'isola, è la Gran Bretagna, di mare ne hanno, certo non è quello della Riviera Adriatica, saranno queste cose tristi shakespeariane, sai, la tempesta, il buio, la neve quasi, insomma, ecco. Quindi ci siamo riascoltati gli Wham, che mi fa sempre piacere, potremmo anche riascoltare tutto il giorno, però dobbiamo andare avanti, ecco. Sì, no, non mi guarda Mauro, quando non vuoi mandare un pezzo mi dici no, non lo voglio mandare. Ah, mi ha scritto Lavinia dicendo che per lei l'estate passa in città e trova una buona soddisfazione nel consumare tanti frappè. Purtroppo non posso chiamarla perché volevo sapere quali gusti, che ricette aveva. Vabbè, ci sono le parvenze anche musicali e non sto parlando degli UM adesso. Se sentite questa clip resterete un po' esterefatti, sentite. È finita, come tutte le cose belle. stelle è finita. Cantando, è Vasco o non è Vasco? Non lo sappiamo, ma possiamo chiederlo, perché c'è Tano in linea. Tano. Ehi, ciao, ciao. Ciao. Tano, ciao. È il cantante che stavate sentendo adesso, è il cantante dei Vasco Dentro. Allora, piccola precisazione, parliamo di tribute band. Le tribute band sono una cosa diversa dalle cover band. Le cover band sono quei gruppi che si mettono sul palco e fanno cover di vari cantanti. Le tribute invece sono dedicate a un solo cantante, a un solo artista, fino addirittura a diventare come lui. Tano, ma tu ti senti come Vasco? Eh sì, un po' sì, perché comunque anche dal nome della band, Vasco Dentro, un po' ce lo portiamo dentro un po' tutti, no? Infatti, io ho scelto i Vasco Dentro, cioè, esistono tantissime band che fanno le canzoni di Vasco, ho scelto loro perché tra tutti erano quelli più bravi, proprio li ho sentiti, loro sono preparati, ma musicalmente, ma tutti però avete il cappellino sul palco, Tano, anche tu porti il cappellino? Eh sì, quello è d'obbligo perché diciamo è il simbolo del Vasco, no? Da quando lo si conosce, il cappellino è fondamentale. Anche se nell'ultimo video non aveva il cappellino e ci ha rivelato una, diciamo, calvizie galoppante. Certo, ma poi chi ti viene ad ascoltare dice, vabbè, però tu il cappello non lo metti. Ecco. Alla fine sei costretto a metterlo. Però quando... Perché comunque... Sì, dimmi. Vasco ce n'è uno solo, insomma. Non è naturale, che... ultimamente anche metà. Per fortuna è uscito oggi, come abbiamo sentito, sta anche bene, per cui sarai felice. Senti, ma come ti è venuto in mente di fare una tribute band dedicata a Vasco Rossi? Beh, Vasco ho sempre avuto la passione fin da quando ero piccolo, ascoltavo le canzoni anche con mio padre. Poi col tempo, diciamo, mi sono sempre più appassionato e ho detto, però, è un vero rocker italiano e secondo me merita un tributo. Tributo poi alla fine che doveva essere fatto bene. Io ho fatto questa scelta con tanti sacrifici e poi tanto impegno. Ecco, oggi ho deciso di parlare delle tribute perché sono un po' una parvenza anche loro. Chi non può andare al grande concerto perché è troppo lontano, allora cosa fa? Può andare a sentire le tribute che, come nel caso di Vasco Dentro, insomma, suonano anche bene. Voi fate tutti i pezzi di Vasco o tu preferisci farne solo qualcuno? No, noi attualmente abbiamo 60 pezzi di repertorio, però facciamo sempre... ad esempio ora stiamo facendo il tour, l'ultimo tour che sta facendo Vasco, noi facciamo il 70% dei pezzi che fa lui al tour. Sì. Poi spaziamo un po' dal vecchio al nuovo in modo tale da accontentare un po' tutti, perché Vasco abbraccia, diciamo, una vastissima generazione di persone, quindi alla fine deve accontentare tutti. Infatti, ho sentito proprio in questo pezzo che avete sentito, cioè Alba Chiara cantata dai Vasco Dentro, sia da Tano, che addirittura fai cantare il pubblico proprio come fa lui. Eh beh, ma Alba Chiara diciamo che è un pezzo importantissimo, anzi se non la fai a fine concerto rischi quasi il linciaggio, quindi è importante farla e il pubblico poi si fa trascinare, diciamo, dalla grande musica di Vasco. Ecco, quindi... finché io vado a uno spettacolo, un concerto di una tribute e vedo Vasco o comunque la parvenza di Vasco sul palco mi va bene, a volte capita anche una cosa strana. Ascolta com'è, Tano. Porto San Giorgio, tutti pronti? Ci siete? Se io vado e mi trovo Freddie Mercury sul palco, dico, ma santo cielo, no, non può essere lui, è un fantasma, perché ci sono anche le tribute band dei Queen, e sono tantissime fra l'altro. Come, questa è una delle tante, si chiamano Regina, proprio hanno tradotto definitivamente il nome, una volta per tutte, così non ci sono problemi, non c'è possibilità di sbagliarsi. Li conoscevi i Regina, Tano? No, non l'avevo mai sentito, sentite altre band, però non i Regina, insomma. Ma avete rapporti tra le band che fanno il tribute dello stesso artista o no? A volte sì, ci scambiamo i musicisti, poi ci sono altri che magari hanno un po' la puzza sotto il naso, perché poi, come dicevo prima, di Vasco ce n'è uno, però loro si sentono come Vasco, ma certo. Alla fine, diciamo, però molto spesso ci scambiamo i musicisti, quando non può uno, insomma, ce ne passano un altro e così via. Insomma. Per finire, Tano, tu Vasco l'hai mai incontrato? No, è il mio sogno e rimarrà tale, mi sa. Dai, adesso... non tiriamogliela, dai, su. No, ma nel senso che è difficile incontrarlo. Sono andato persino a Zocca, ma non l'abbiamo mica beccato. Ma non sarà mai a Zocca. Ai concerti, però, io ho preso il cappellino, quindi ce l'ho nell'armadio come una reliquia, quindi rimarrà lì. Ecco, dimmi solo, dov'è che suonate prossimamente? Bene, venerdì siamo a Brescia, a Sonico, poi sabato siamo a una festa in una discoteca a Serramazzone a Modena e poi così via, ci abbiamo il sito vascodentro.it, ci sono tutte le date lì. Perfetto, guarda, ti faccio un regalo, faccio riascoltare Alba Chiara cantata da te. Ah, grazie mille, grazie mille. Grazie a te Tano, ciao. Ciao, ciao, ciao, grazie, ciao. Ciao. È finita, come tutte le cose belle, è finita. Ti piace fare i pezzi più famosi del loro repertorio perché dal vivo non li cantano più, mettono il microfono verso il pubblico e il pubblico canta per loro, quindi è tutto molto più comodo. Questo ricordo era Tano di Vasco Dentro, non era Vasco che cantava. Giuliana da Cagliari ha preso il telefono e ha fatto 800 24 00 24 e adesso mi racconterà qual è la sua pervenza di estate. Giuliana. Ciao. Ciao. Come va? Ma per me benissimo, sono qua, sto dicendo ogni possibile baggianata, però mi va bene. E invece tu? Ma anche a me va bene, cioè, sto lavorando, però anche se sto lavorando abito in una città bellissima con il mare a due passi. Qual è? Quindi, e lei abito a Cagliari. Ah, Cagliari, non l'avevamo detto infatti, Giuliana da Cagliari. Quindi... Abito a Cagliari, quindi arrivare al mare impiego 10 minuti, un quarto d'ora, quindi anche dopo il lavoro si può andare tranquillamente a fare il bagno al poeta, al nostro bellissimo poeta. Ma in che stato è il poeta? È vero che ci si può andare in metropolitana? No, non esiste a Cagliari. Infatti, comunque è stata un cavallo di battaglia delle ultime elezioni, la metropolitana che portasse al poeto. No, non c'è bisogno della metropolitana, siamo talmente vicino, anche i pullman ci arrivano benissimo, insomma. Ecco, quindi però tua, ancora abbastanza bene. La tua non è una parvenza d'estate, perché comunque è il mare. Abbiamo il mare, ecco, io ho la fortuna di abitare in un paese, in una città dove c'è il mare, per cui non c'è la necessità di andare fuori, a parte che per noi è un problema spostarci, visto il problema dei trasporti, quindi devi organizzarti tanto tempo prima. Ma ci accontentiamo del nostro mare. Ci sono ancora i fenicotteri? Sì, ce ne sono tantissimi fenicotteri, hanno nidificato da noi, quindi è una cosa bellissima. Noi ci siamo abituati. Io no, capisci, perché qua i fenicotteri muoiono, appena arrivano a Cesano Lombardone, pum, cadono per terra, diventano grigi. Venite a vederli allora. Va bene, verremo ma in silenzio per non farli scappare. Grazie Giuliana. Di niente. Ciao. Mirko da Pie. Mirko. Eccomi qua. Cos'è Pie? Io proprio non so le tarde. Pescara, ma se mi coprite la voce, io non sento quello che mi... Perché vogliono fare i Saputelli di là, sai, la redattrice, il regista, vogliono... Che Pe e Pescara. Cosa fai a Pescara? No, io lavoro, ma sentendo sia da te il commento sugli anni 90, le tribute band, ne ho approfittato, in quanto mi sentivo toccato, perché anch'io con i miei amici suono in una tribute band... Un gruppo che, insomma, anche ora adesso è in voga, però negli anni 90 ha raggiunto il suo culmine, i Depeche Mode. Ah sì, ma per me i Depeche Mode sono anni 80, sai, sono più vecchio, per cui sono legato... Beh, coprono sì, 80, 90, però è vero, insomma, anch'io con i miei 40 anni li sento da quando ero ragazzo, quindi... Ma tu fai il cantante? Sì. Quindi sei tutto tatuato, vai in giro in canottiera anche in inverno... No, assolutamente, giacca e cravatta, faccio un altro tipo di lavoro. Siamo quattro persone che secondo me nella vita non ci sarebbero mai incontrate, perché io mi occupo con un'azienda di vendite, poi c'è un altro ragazzo che fa l'infermiere. Però la sera impazzite e diventate i Depeche Mode, che però sono tre adesso i Depeche Mode. Esatto, però noi ci siamo riferiti a quegli anni 80, quindi in quattro. Ah. No, siamo voluti rimanere fedeli ai primi Depeche Mode, quelli... che hanno, diciamo, esordito. Vabbè, allora dimmi per chiudere come si chiama il gruppo. Playing the Mode. Vedi, c'è sempre riferimento a un album, a qualcosa, perché Playing the Angel, sì, naturalmente. Sì, ma più che altro è stato trovato, sai, Playing the Mode voleva avere il doppio significato, playing, giocando, cantando ai mode. Infatti... Ecco, quindi perfettamente parvenza come era, insomma, siete in stile con la puntata di oggi, perfettamente nel sì, tema. Sì, grazie sì. Mirko. Grazie a voi. Ciao, grazie, ciao. C'è Paolo da B, che so che è Biella, quindi non fate gli spiritosi. Pronto Paolo? Sì, buongiorno. Perché è Biella. È Biella, no, perché prima ho dimenticato che Pie e Pescara, le province nascono, finiscono, vengono chiuse, non è si vero, sa. È vero. Che mi dici? Ah, niente, io volevo inserirmi sull'argomento dell'idroscala, no? Io sono di Biella e parlando dell'idroscala non sono di parte perché non sono milanese, però ho avuto l'occasione di passarci due o tre weekend qualche anno fa, e mi ha colpito perché nessuno lo conosce praticamente. Quando si parla di idroscalo sembra una cosa, una specie di fognatura, cioè, in giro per l'Italia. È un posto bellissimo, è un posto bellissimo, ma anche i milanesi nuovi, non quelli di un tempo, i nuovi milanesi hanno sempre questo vizio tutto cippettone, cioè vanno fino alla Terra del Fuoco naturalmente. Ecco, Terra del Fuoco, poi naturalmente, guarda, racconto brevemente una cosa, poi chiudiamo, la racconto anche a te. Tempo fa ho conosciuto per lavoro una persona che subito mi ha raccontato di essere stato in Nuova Zelanda 6 mesi e che voleva andarsene a Londra perché l'Italia gli stava stretta. Vabbè, parliamo. Era verso Natale, stavo organizzando la mia classica festa di Natale, e ogni Natale faccio una festa a casa, sei invitato sin d'ora, guarda. Grazie. Io abito appena fuori città e gli ho detto: vieni. Bene, questo qua non è arrivato, mi ha mandato un messaggio dicendo: mi sono perso, non riusciva a fare 8 chilometri da Milano a casa mia. E io ho detto: sei un imbecille, cioè, gente che si vanta di andare in Nuova Zelanda, nella Terra del Fuoco o su Marte, e poi non sanno arrivare lungo la Paulese. Grazie Paolo. Ciao. Ciao, ciao. Abbiamo finito anche oggi con la nostra parvenza d'estate. Domani torniamo con, preparatevi, perché domani è Sant'Eusebio e quindi la puntata si chiamerà Viva Sant'Eusebio, le vostre avventure, le esperienze tra gli scout, in oratorio, nei pellegrinaggi. Avete fatto un pellegrinaggio? Bene, narratemelo nei dettagli. Quali canti avete fatto? Le canti di lode, Viva Maria, queste cose. Sarà veramente una puntatona. Stiamo già contattando degli ospiti che sono stati nei Boy Scout da piccoli. Speriamo non scapperanno fino a domani. Grazie a Mauro De Angeli, nonostante mi corregga, e grazie anche a Claudia Ricifari, nonostante mi correggano. Adesso Pe e Pescara soffrirò per questa cosa, perché ho fatto la figura dell'ignorante. Ci sentiamo domani alle 16. Ciao.